Gianluca, dato che stavamo parlando, hai accennato anche allo scorso anno, che riscontri ci sono stati? I riscontri sono straordinari, ogni anno cresce sempre di più, ma come sappiamo è uno streaming aperto fino a 1.000 persone, quindi più di tanto non possiamo aprire. Ricordo che si tratta di un'operazione di comunicazione, di un'operazione che vuole promuovere il cinema, perché poi molti di questi film usciranno nelle sale cinematografiche, quindi seguiranno il loro percorso naturale. È un'attività di promozione e quindi sì, l'attività migliora, hanno più, sempre di più, però a un certo punto ci dovremo purtroppo fermare perché abbiamo un limite, probabilmente anche corretto sotto qualche punto di vista, di 1.000 posti disponibili. L'anno scorso abbiamo fatto dei sold out, quest'anno siamo curiosi di capire se ci saranno altrettanti sold out su alcuni film, c'è molta attesa sui film italiani, siamo molto contenti di averne quattro quest'anno e speriamo sempre in meglio. In chiusura, Gianluca, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente, da MyMovies.it, già dall'home page ci sono tutti i richiami per poter accedere alla sala web. Chiaramente servirà attivare un abbonamento per accedere ai film, ma stiamo parlando di un abbonamento di €17,90 per vedere i 16 film, quindi parliamo di poco più di €1 a film, e con questo abbonamento poi potrai vedere per ulteriori 3 mesi altri film disponibili all'interno del catalogo. Basta andare su MyMovies.it, da lì ci sono tutti gli accessi per accedere ai dettagli e alle pagine della programmazione in streaming. Ricordiamo allora l'appuntamento con Sala Web in streaming su MyMoviesRepubblica.it della 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Un ringraziamento e un saluto a Gianluca Guzzo di MyMovies. Gianluca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e a prestissimo. Grazie, ciao. Claudia Bedogni di Satin Film per parlare della distribuzione del film Mr. Long di Sabu in uscita in sala mercoledì 29 agosto. Claudia, ben trovata. Buongiorno Federico, grazie del vostro invito, sempre estremamente gradito e piacevole. Grazie, ben trovato. Lo presenti? Sì, guarda, grazie, sono particolarmente felice di avere l'onore di poter presentare questo film, Mr. Long, perché è un film a cui sono particolarmente affezionata, soprattutto al suo regista, per due ragioni: il grande maestro giapponese Sabu, perché tanti anni fa, quando mi affacciavo appunto timidamente alla distribuzione cinematografica e acquisivo i film per conto appunto di un distributore, il primo film che ebbi l'onore di acquisire fu proprio un film di Sabu, che era Postman Blues. Quindi c'è un legame, anche se vuoi affettivo, questo capitava circa più di 20 anni fa, quindi ritrovarlo con un film che comunque unisce un po' tutti gli elementi che mi avevano portato ad adorare allora Postman Blues, per me è un motivo veramente di grande felicità. E Mr. Long è un film molto speciale proprio perché unisce tanti generi, tanti stili, e questa è la grande abilità di questo regista giapponese che osa l'inusabile, perché riesce a passare con estrema disinvoltura ed eleganza da un genere all'altro, cioè dalla violenza alla dolcezza, alla delicatezza dei sentimenti, all'action invece adrenalinico che comunque ti incolla la poltrona, e riesce sempre a confezionare delle storie che sono al tempo stesso intime, perché comunque ti coinvolgono a livello emozionale, e potenti, perché ha una forza di immagine e anche un'eleganza visiva assolutamente straordinaria. Ovviamente il mio punto di vista, però devo dire che anche buona parte della critica ha sposato insomma queste mie osservazioni. Infatti è stato definito, cioè per definire Sabu è difficile, vengono avvicinati altri grandi talenti, addirittura si osa parlare di Tarantino, Takashi Miike, Kitano, addirittura questo Mr. Long, questa figura un po' emblematica, interpretata tra l'altro dal grande Chen Chang, attore riconosciuto a livello mondiale, che peraltro era anche in giuria a Cannes quest'anno, addirittura viene così considerata quasi una figura un po' tra chitoniana e un po' Charlie Chaplin, perché comunque è un killer, se vogliamo iniziare a parlare un po' della storia, un killer molto particolare, tenebroso, affascinante, perché è interpretato da questo splendido attore che è appunto Chen Chang, che parla poco, ma diciamo all'azione invece si dà grandemente da fare con l'uso del coltello. È un personaggio impenetrabile che però Sabu con poche pennellate riesce già, come dire, a strutturare perfettamente, perché sembra una macchina da guerra, una figura che non ha altro scopo nella vita se non quello appunto di compiere le missioni che gli vengono assegnate, e però uno schizzo particolare al termine delle sue missioni, torna nel ristorante che gli commissiona appunto gli incarichi, si lava le mani ancora così sporche di sangue e si mette a cucinare invece con grande abilità dei dim sum, vediamo nelle prime scene. E questo è un po' l'inizio di questo personaggio particolare che non sbaglia una missione, però un giorno qualcosa va storto. Ricordo che siamo a Taiwan e si parla quindi mandarino. Vorrei anche ricordare che il film è interessante proprio perché è ambientato sia a Taiwan e poi in Giappone, proprio perché la missione dove viene inviato appunto l'ultima missione di Long è proprio Tokyo. Però qualcosa va storto e lui si ritrova in un villaggio sperduto nella periferia appunto di Tokyo, sanguinante, ferito, e gli corre in soccorso un bambino di 8 anni, Yun, che stranamente capisce un po' il mandarino, perché la mamma appunto anche lei è originaria di Taiwan, e che lo aiuta a ricomporsi e che gli porta appunto delle verdure per cominciare a riprendersi, a mangiare qualcosa, e che dalle quali invece Mr. Long con grandissima abilità culinaria riesce a trarre delle squisite zuppe che non passano inosservate agli abitanti del villaggio. Il talento appunto culinario di Long viene subito, come dire, a conoscenza, tutti vengono a conoscenza di questa sua grandissima abilità, tant'è che decidono di farne così, di creare un piccolo business e gli costruiscono un carretto, dove poi così iniziare a vendere appunto il cibo da strada e far conoscere la sua specialità, che è questo splendido ramen di carne, appunto la zuppa di carne alla stile taiwanese. Long non è che abbia intenzione di iniziare vita, anche lui è sempre taciturno e di poche parole, però chiaramente si avvicina a questo bambino, si affeziona, entra nella sua vita, conosce anche la sua mamma che aiuta lui a disintossicarsi e accetta di buon grado tutta la follia di quello che sta accadendo intorno a lui, compresi queste figure giapponesi tra l'altro di grande simpatia, perché Sapo appunto nel mescolare i generi riesce ad aggiungere anche umorismo e comicità con tutta questa galleria di personaggi che ruotano intorno a Long. Per lui è l'occasione anche di mettere qualche soldo da parte e poter ritornare quindi in Giappone, anche se appunto questa nuova vita non sembra assolutamente dispiacergli, però chiaramente poi il passato torna a chiedere conti un po' per tutti. Quindi insomma, suspense, poesia, ma soprattutto una grande favola. E mi sento veramente col cuore di consigliare questo film, perché si sente questo entusiasmo con cui ho cercato di descriverlo al meglio, perché veramente un po' unisce da prendere soprattutto l'essenza pura del cinema, che il cinema è una favola, anche se con la satira noi cerchiamo sempre, come dire, anche di valorizzare argomenti seri, argomenti impegnati, cerchiamo sempre di avere un cinema che rispecchia comunque, che ha uno sguardo molto vigile, attento alla realtà che ci circonda, però è anche vero che comunque il film resta un'occasione di grande divertimento, di grande emozione, e senza nulla togliere dal fatto che comunque Sabu sottotesto riesce sempre a inserire una critica sociale molto forte e ad avvicinare due mondi distanti come la cultura taiwanese e la cultura giapponese, unite in questo caso dalla cucina, che quindi è anche un messaggio bellissimo. E poi l'altro messaggio che lancia è: si può forse lasciare tutte le spalle e ricominciare una nuova vita? Vedete il film e forse la risposta la lasciamo al pubblico. Claudia, di Sabu in Italia cos'altro abbiamo visto in precedenza? Ma io credo solo Postman Blues, sinceramente, sì. Perché lui ha avuto anche Miss Zombie, molto apprezzato, dove lì spaziava proprio, no, nell'horror.